fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, siamo di nuovo in diretta con un gruppo di amici che sono venuti a trovarci, che insomma rappresentano un gruppo molto molto più grande, poi chiaramente noi abbiamo spazi piccoli qui in radio, quindi ne possiamo ospitare solo pochi, ma diciamo che loro sono rappresentanti di tutto un gruppo più largo. Andiamo a parlare con qualcuno di loro, con la nostra organizzatrice direi prima di tutto, e poi sentiamo anche gli altri, mentre fuori c'è grande, grande spettacolo per artisti che in movimento che ci stanno mostrando. No grazie, no grazie, ho smesso. Allora dicevamo che è una serata importante, è una festa importante, andiamo a conoscere i nostri amici. Allora benvenuti intanto. Grazie, grazie, ciao. Da dove venite? Da Grezzana, dalla Valpantina. Grezzana, molto bene. E cosa festeggiate stasera? Siamo i 40 anni. I 40 anni, quindi si mille... Dice che si festeggino una volta sola, no? Così sembra. Così sembra. Così si spera, dai. Si spera. Ok, quindi 1979, certo, se la matematica non ci inganna. Come dice la loro maglietta, ovviamente, anche perché diciamo che hanno, come dire... Stavo dicendo colorato, ma non è il termine giusto perché la maglietta è nera. Però in ogni caso hanno caratterizzato la serata perché sono 50, se non sbaglio, certo, 48, certo, giù di lì. Esattamente. Quindi un numero enorme. Intanto, vabbè, come ti chiami? Silvia. Silvia, che è più o meno l'organizzatrice, da quando ho capito. Comunque, siamo che... un gruppo, siamo un gruppo, sì, di organizzatori. Quella che ha messo insieme con un po' di persone. La prima domanda che mi viene in mente, ed è una domanda bellissima, è come a 40 anni si riescono a riunire 50 persone tutte in una sera? Cioè, io non ci riesco a 20, a 25, a 30 nemmeno ci provo, e voi a 40 siete così tanti. Come fai? Guarda, come fate? Con 20 anni o con 30 anni era molti di meno, ma perché comunque i mezzi erano molto diversi. Sì. Con i social veramente è tutto molto più semplice. Ok. Semplicemente con WhatsApp abbiamo raggiunto veramente un gruppo di 130 persone. Ok. E... della Valpantina, abbiamo allargato veramente a tutta la Valpantina, non solo a Grezzana, per cui siamo veramente bello, tanti. Bello, tanti. Veramente. E domanda tecnica, quanto è stato difficile trovare la data giusta? Oppure si è scelta una data, chi c'è, chi non c'è, saluti. Esatto, questo. Okay. Questo. Okay. E beh, come è giusto, se no non si finisce più. È sempre difficile mettere insieme comunque tante idee, tante persone, per cui abbiamo... proposto una data e si sono comunque hanno aderito veramente tante persone. Bello, bello. Dalle tue parole sembra però che sia una delle, forse non la prima, ma non sia successo molte volte di trovarvi così, oppure sì? No, così tanto è veramente il record assoluto. Sì, sì, anche perché abbiamo esteso e insomma i 40 anni sono comunque una data importante. Dai, si sentono, avete fatto bene a celebrarli nel modo giusto, speriamo che siamo riusciti anche a... come dire, soddisfare le vostre aspettative. Allora dai, voce anche velocemente agli uomini che ti accompagnano, torno a dire, rappresentante di un gruppo molto molto più alto, se volete anche voi salutare, presentarvi. Beh, io sono venuto qua grazie a Silvia e agli organizzatori, io abito un po' fuori, diciamo, a Grezzana, a Arbezzo, Monte no, ok, Sieri. Diciamo che è un po' l'imbucato della serata. Esatto. Sei accodato. No, sono tutti benvenuti. Ah, ok. Esatto, siamo stati accolti. Però dico una cosa, sono stati molto bravi perché tu hai chiesto giustamente come si è fatto a fissare una data. È difficile. Bravo. Cioè, ripeto, io quasi nemmeno con la mia famiglia riusciamo a trovare una domenica per andare, esatto, a pranzo tutti insieme, quindi figuriamoci in 50. Esatto, però secondo me la differenza alla fine, almeno da quello che mi riguarda e quelli che sono qua, uno se ha l'impegno e la voglia di venire, il tempo lo trova. Sì, la motivazione, certo. Quelli motivazione. Che vogliono, a un certo punto dici... ci sono, e gli altri tra virgolette si attaccano. Beh, ma alla fine non, che, questo... cioè, non è mai giusto una così, però purtroppo è brutto anche... da dire, però non si può fare altrimenti, è stato questo, immagino. E secondo me insomma alla fine è una bella serata essere qua anche con te, che quindi ti dai questa possibilità. Beh, ma noi abbiamo apposta questo spazio per farvi raccontare quelle che sono le vostre emozioni, esatto, prima di tutto, e poi anche insomma i motivi per cui si fa festa, perché è banale racchiuderli in una data, come esatto, dite voi, esatto. Ma ci possono essere varie occasioni, diciamo che è anche bello passare dal matrimonio alla vostra, esatto, festa, al compleanno, alla laurea, cioè qui c'è veramente di tutto ed è bello sentire proprio dal cuore delle persone esatto, che è bello ancora fare festa e divertirsi in modo, lo vedete anche voi, più, poi, esatto, molto sano, molto sano. Esatto. Bene, gli altri due? Il ragazzo che stava un po', secondo me era più o meno, funziona ciao, anche quello, se volete questo, così. Okay, sì, okay, ma okay, tutti e due. Sì, ciao, sono Roberto. L'abbiamo svegliato, perdonami, perché era un attimo. Vabbè, un attimino. Sì, sì, ha avuto un attimo di crollo psicologico. Sì, sono Roberto, anch'io con Silvia, insomma, ho dato una mano per organizzare questa serata. È vero, abbiamo tirato su un bel gruppo di persone, non ci credevamo neanche voi, neanche noi, però alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma, forza di continuare a insistere con Silvia, che con veramente... Ma quando è che... è un vulcano! Vabbè, ma ci vuole quello che tira le fila. Ma quando è che siete partiti in tutto questo? Ma siamo più o meno a dicembre. Con già una data. Siamo riusciti a tirar dentro 125 persone, poi da 125 insomma 50 siamo riusciti fisiologicamente. Devo dire che però in tutto questo la parte più bella quasi è stata anche il fatto di trovarci tra di noi e organizzare. Abbiamo organizzato delle serate, delle pizzate, insomma, comunque dove alla fine ci siamo comunque divertiti molto, anche nell'organizzare. Poi è vero, è sempre complesso un po' mettere d'accordo tutti quanti, però... salutiamo intanto tutti i nostri classi 69, certo, che fuori ci stanno facendo il tifo. Infatti purtroppo, ripeto, mi spiace non poterli ospitare tutti, ma dal punto di vista proprio logistico è impossibile. Esatto. Sì, sono tanti. Salutiamo anche Davide e Sonia, che purtroppo all'ultimo minuto non hanno potuto venire per problemi, insomma. E tutti quelli che per figli piuttosto che per altri figli lavoro, esatto. Beh, anche adesso io non sono fortissimo in geografia, Grezzana si trova? Verona. Neanche troppo scomodo, mi sembrava un nome molto molto nordico, no? Erbezzo. Però insomma, no, quando comincia ad avere figli, lavoro, che comunque potrebbe risultare comunque anche lontano. Frontaliero lui, dicevano, quindi. Ma poi una cosa voglio aggiungere. Non so perché, però ha un nome montagnino, sia Grezzana che... non so perché sembrano nomi montagnini, invece è Verona, quindi neanche troppo lontano. Erbezzo è a 30 km. Da Verona, mille metri. Ah, okay, okay. Sì, beh, però cos'è? Un'oretta e mezza neanche di macchina. Quindi vedi, comunque raggiungibile. Poi una cosa positiva secondo me è che al giorno d'oggi con tutti sti social, no? Viviamo tutti sui social e alla fine non ci conosciamo, almeno per quello che mi riguarda. Sono stati gentili a invitare anche Vallata e un po' oltre. È stato bello perché oltre a vederli su WhatsApp, Facebook, Instagram, abbiamo potuto vederci di persona e conoscerci, perché alla fine io metà di questa gente non li conoscevo. Certo, lui l'avete conquistato, è esaltatissimo. Emozionato. No, si vede che è sinceramente contento. Ma i 40 anni era una data per comunque fare qualcosa di diverso. Bene, fino adesso abbiamo fatto comunque Grezzana e dintorni. Abbiamo pensato appunto che con i 40 inviteremo anche te la prossima volta. Volentieri. Magari non sappiamo l'anno. Vabbè, mi unisco, mi fingo. fingo, non ti preoccupare. Noi ci divertiamo, perché magari infatti, ti poi hai voglia, ma è sempre bello. Vuoi dire qualcosa anche tu? Ti va? C'è l'ultimo. Io sono Andrea, non sono un organizzatore, ma ringrazio chi ha organizzato questa serata, perché ho trovato gente che non conoscevo, che non vedevo da anni, e niente, sono contento. Bello, anche qui si sente, è bello, questo ci piace che passi, cioè la sincerità delle emozioni, la sincerità anche dei sentimenti. Ma vi capita quindi, al di là delle volte organizzate, di trovarvi fuori, no? Raramente, o ce la fate? Beh, così tanti no. Con alcuni. Insomma, comincia a essere sì. Abbastanza importante. Sì, però dico, insomma, ci sono i piccoli gruppetti, chiamiamoli così. Sì, ma poi ogni volta che ci vedevamo comunque in varie occasioni magari ci dicevamo quando è che organizziamo la festa, e quindi insomma era ormai il motto. Ci sta, siete riusciti, l'importante è riuscire. Allora, grazie mille ragazzi, grazie anche perché poi fuori si è popolato di parecchi amici e componenti del loro gruppo che stanno come si dice, partecipando anche attivamente o meno all'intervista, al di là del ragazzo che ci ha mostrato insomma l'ombelico del mondo, per essere un po' metaforici, ce l'ha mostrato anche più volte e lo ringraziamo anche lui, in questo modo colorato di partecipare. Ci ha mostrato altre cose che però non diremo in radio. E niente, allora ci vediamo quando? Dici tu, Silvia, a questo punto? Ma stiamo già pensando alla festa dei 41, ma sai, adesso godiamoci la festa. No, quello sicuro, quello sicuro. Era per dare una, non dico una sorta di promessa, ma appuntamento. Ma ci stavano già chiedendo comunque almeno i 45 e i 50. No, prima, dai, 45. Lui, guarda che questo adesso fine 45. Siamo sul pezzo. Non esce più di casa, ragazzo, bravo, fine 45. Una volta dato comunque la macchina. Non esce più, bravo. Quindi dovete portarmelo fuori di casa, sennò no, ma veramente un successo. Comunque venire bene, qui bene. Veramente un successo. Bene, ci fa davvero piacere. A tutti, veramente per una festa veramente importante come quella dei 40, super. Grazie davvero. Allora ragazzi, grazie ancora, grazie e buona fine serata e un saluto ovviamente grazie, a tutta Grezzana, insomma, tutto il 1979. Ciao! Ciao! Ciao a tutti, grazie, ciao.